760. Gelato di amaretti. Latte 1 litro, zucchero grammi 200, amaretti grammi 100, rossi d'uovo numero 6, odore di zucchero vanigliato. Pestate finissimi nel mortaio gli amaretti e dopo poneteli in una cacciaruola unendoci lo zucchero, i rossi e l'odore. Mescolate e versateci il latte a poco per volta. Mettete la cacciaruola al fuoco per condensare il composto come fareste per la crema. Indi versatelo nella sorbettiera per gelarlo. Sentirete un gelato squisito che può bastare a buona misura per 8 persone. La metà dose può servire per 4 ed anche per 5 persone.